ritrovati e ben ritrovate alla Fuga del Gatto, che mancava da tantissimo, proprio ci eravamo perse. Sì, veramente perse nella tana del Bianconiglio. Sì, però entrati in un universo parallelo e in un diverso, come si dice, stato di allucinazione. Beh, però insomma, piano piano abbiamo levato le zampette e ci siamo ripresentati così con un puntatone, direi, che addirittura lo annunciamo, si può dire, verrà diviso in due parti. Sì. Tantella mole di questo, di sì, questo. E non vi preoccupate, non è Shakespeare. No, non vi preoccupate. Quello abbiamo per ora, perché come sempre Shakespeare ritorna, però per ora no. È invece una soap opera, perché mancava, veramente, se lo lasci dire, guardi, signora Bloody Mary, la soap opera mancava veramente. Era un po' che non l'abbiamo fatta. Qual era l'ultima? Si è fatta la Carmen, l'ultima. Ma tipo d'estate. Mille anni fa. Tipo io e il buon Guido, mi sa. Sì. Però... sì. Ma del resto voi ascoltatori e voi ascoltatrici non ci state subissando di messaggi, no, dicendoci ma come, ma dove eravate e perché. Infatti, la soap opera non torna. Qualcuno. Infatti io sono un po' stupita, un po' indignata. Sì, la cosa brutta di sparire è che se poi non ti cerca nessuno è un dramma. Cioè qualcuno me l'ha chiesto, no, eh? Meno male. Tipo, ma quella roba che fate voi la domenica lì della roba più classica? Sì, vabbè. Ah. Io ho visto tua mamma l'altra settimana, speravo almeno lei mi chiedesse, invece niente manco l'ha ignorato. Vabbè. Signora, però siamo qua. E quindi sì, così reduce dai viaggi della pimpa. E infatti perché? Ma da. Perché parliamo della soap opera? Da. Perché, come vi avevamo già, cioè io ho fatto la sborona, ecco. Ma quando la pimpa va in vacanza, no, io sicuramente rimarrò qua, certo, nella posizione. Non è vero. Non era mai vero. Non è vero. Non è vero, perché è chiaro che poi uno giustamente da solo che dove va. E sì, quindi abituata ormai, capito, avere, come fa, poi si sente sola. E allora aspettato il mio ritorno, vero, così fuori. Sì, ero lì sulla porta. Sì, proprio non ci dormiva la notte. C'era la gattaiola, esatto, che era lì che cercava di... E così sono rientrata in patria. E però così porto con me, insomma, ecco, esperienze così di teatro notevoli, perché appunto sono riuscita a vedere, ora a dirlo così sembra che uno se la tira, ma invece lo dico con tutta l'umiltà del mondo, a vedere la Lucia di Lammermoor in una bellissima versione alla New York Metropolitan Opera House. Vabbè, cioè, perché io ora non ce l'abbiamo, però l'applauso. C'è chi, come racconti delle vacanze, parla, non so, di Cecina, claro, o di Marina di Grosseto. Chi porta le diapositive dal Nepal? E io no, io vado a New York e non è che va come tutti vanno a ballare fino alla mattina, chissà, vanno nei peggio club. No, e io vado all'opera come le vecchie, fondamentalmente. Vabbè. Infatti, ho scoperto così buffamente l'opera non costa un cavolo, perché non c'è nessuno. Certo. Il biglietto dell'opera, quelli scrauti ovviamente, non costavano nemmeno tanto. Però invece ho beccato questa bellissima versione di Lucia di Lammermoor, che devo ammettere avevo visto solo una volta in Italia, anni fa, e questa bella, veramente, questa bella allestimento alla Metropolitan Opera House, che ovviamente vale la pena vederla anche solo il palazzo e il foyer e tutto, è bellissimo. Scusa, però te lo devo chiedere subito in apertura. Sì. L'hai fatta quella cosa di mettere l'adesivo di Radio Wombat, certo, sui cessi del teatro dell'opera più grande del mondo? L'ho fatto ovunque un po', l'ho brava, fatto al Metropolitan, lo dico più tanto, l'ho fatto anche al MoMA, l'ho fatto, brava, perché, vabbè, siamo perdere per il racconto del MoMA un'altra volta. E sì, l'ho fatto, ce ne avevo un paio, l'ho osservati. Tra l'altro, tra un po' non mi fanno nemmeno rientrare, perché poi lì sono tremendi. E, però, così, questa Lucia di Lammermoor, che appunto che ho visto, ci ha dato l'ispirazione per parlare appunto di quest'opera. Non avevamo mai parlato di Donizetti, nemmeno. Così, perché noi così ce le snobbiamo un po' l'opera. Sì, perché io, essendo una donna barocca, dopo quelle cose là dell'Ottocento. E io invece, lo sai, a parte Mozart e Wagner, così, il resto non esiste. E infatti tutte le volte dico un'opera, dico bella, è bella. Però non è Mozart. Però. E qui anche questa volta, bravo Donizetti, perché per carità, sì, però... se vedevamo così fan tutte, secondo me. Vabbè, perché c'era una scelta, la persona con cui sono andata mi ha detto o Lucia di Lammermoor o il così fan tutte. Io subito così fan tutte. Però era una bruttidice che boh, mo, non lo so, per attirarmi in un tranello, non so perché me l'hanno detto, ma me l'hanno smontata, hanno detto no, una brutta versione, tutta ambientata negli anni 50. Sì, certo. Vabbè, ho detto vabbè, allora vediamo Lucia di Lammermoor, vabbè, sai, sono un po' contentata, come dire. Che comunque... Che però ti dirò, non mi sono pentita, perché era veramente, veramente, valeva veramente la pena. Quindi, niente, così, riportando a casa Lucia di Lammermoor, riportiamoci a casa Donizetti, tanto sti americani che vuoi ci capiscono, per cui me la sono accollata e valeva la pena. E questa Lucia di Lammermoor, un'opera in tre atti, appunto, di Donizetti, sul libretto di Salvatore Cammarano, che in realtà poi a cui poi Donizetti insomma ci rimise le mani, ovviamente, poi comunque è tratto da The Bride of Lammermoor, che è appunto la sposa di Lammermoor, di Sir niente proprio di meno che Sir Walter Scott, a cui nella bellissima Edimburgo c'è un fantastico monumento incredibile dedicato, non so se qualcuno va. Comunque il vecchio Sir Walter Scott, oltre a Ivanhoe, aveva prodotto anche questa racconto gotico, appunto molto, molto cupo, della sposa di Lammermoor. È fondamentalmente la più famosa, forse, tra le opere serie di Donizetti, insomma quella che si ricorda sempre di più. E ha, non a caso, perché ha veramente dei punti così, tocca veramente dei punti notevoli, e è un'opera di grande impegno per la protagonista, insomma, per chi si accosta a questo ruolo, insomma, che è un soprano, appunto, la Lucia. Lo sentiremo poi negli ascolti. Abbiamo la Callas, è stata una delle interpreti, insomma, ha sempre dato una delle più belle versioni, ma tantissime cantanti liriche l'hanno interpretato. Nella versione che ho visto io, appunto, un po' di giorni fa, la soprano era... non vi voglio dire, ecco, controllo per il nome, era Julia Pratt, che è un soprano inglese molto molto molto brava, che ha infatti nel suo curriculum, insomma, ci sono parti come la Regina della Notte, del Flauto Magico e tantissime altre parti che richiedono veramente grosse, grosse capacità, perché la Lucia è appunto un personaggio oltre che intenso, insomma, è anche, ci vuole anche una grossa capacità, insomma, recitativa per interpretarlo, e ha delle parti veramente difficili. È interessante perché rispetto a tante eroine del bel canto, a tante protagoniste dell'opera classica italiana, un po' perché è tratto da un racconto molto particolare, molto bello, e quindi anche se il libretto ovviamente lo ammazza, perché chiaramente si sa che è un po' così, lo taglia, ne prende delle parti, no? Non l'ho letto il racconto di Scott, però credo sia più complesso chiaramente di com'è poi l'opera. Però ecco, veramente il personaggio ha delle sfumature, ha delle componenti psicologiche veramente interessanti e profonde, che rispecchiano molto anche tutto un clima, insomma, è stato poi citato, ripreso, addirittura in Madame Bovary c'è proprio delle citazioni dirette di lei che va a vedere la Lucia di Lammermoor. Ma non è un caso, Madame Bovary si cita spesso riferita alla Lucia di Lammermoor, perché è un po' rappresentativo, ovviamente Lucia di Lammermoor è ambientata nel XVI secolo, però non la versione che ho visto io, che invece era ambientata all'inizio del Novecento, alla fine dell'Ottocento, infatti era molto bella, anche forse per dare proprio questa componente più moderna, proprio perché è un personaggio che subisce, no, le come generazione di donne nei secoli, subisce le costrizioni della famiglia e della sua casta, e che vanno contro il suo desiderio, e le conseguenze poi sono tragiche. Quindi cioè, è proprio un tema, un topos fondamentale per tutto quello che sarà anche il romanzo, no? dell'Ottocento, di questa borghesia veramente repressa e frustrata, soprattutto le donne, poi subiscono sempre, no? il volere. E quindi Lucia di Lammermoor è interessante più forse di altre opere così della tradizione operistica italiana, proprio perché il suo personaggio è veramente, prendendo un po' spunto appunto dai romanzi, ma anche più indietro fino a Shakespeare, poi lo vedremo, crea appunto questa atmosfera molto gotica, molto, molto bella e molto intensa, ecco, molto psicologica rispetto magari, non è un personaggio piatto, ecco, come magari un po', lo so, un po' stereotipate, no? Sempre i personaggi. È un po' meno soap opera, diciamo. È un pochino, sì, è un po' più fine, è un po' più... Infatti è più bella, è dai, più dai, sì, dai, dai, è cioè, veramente, è un po', è veramente bella, sì. Anche se poi la struttura è quella, nel senso, no? Le arie, così, in classica struttura dell'opera italiana. Però, veramente, sono rimasta, anche io che sono sempre un po' così, con le mani avanti, devo dire che sono rimasta colpita da questa versione in particolare. Comunque, scusa, io non vorrei buttare sempre tutto in caciara, come... però notavo, cioè mi è proprio caduto l'occhio sulla pubblicità nel retro del libretto che è Rolex. È chiaro. Perché comunque visto che ormai è sdoganato ed è sulla cresta dell'onda, e allora ormai... Sì, certo, perché ho portato il libretto dall'opera al Merf e la Mari, ma chiaramente dietro c'è... C'è la pubblicità della Rolex, che così. Comunque... No, non hai capito, Sponsor, Fuga del Gatto, sponsor by Rolex. Non hai capito che l'opera, cioè tipo al Metropolitan ci sono i testi, sulla sedia davanti a te scorrono in piccolino i testi, così anche le persone cieche come noi possono vedere, certo, possono leggere, certo, il testo, e tu te lo puoi mettere in varie lingue, ed è, c'è scritto tipo sovvenzionato da, insomma, grazie per la tecnologia, sovvenzionata da Dolce & Gabbana. Chiaro. Comunque sei negli Stati Uniti. Cioè, non come la Pergola che sono stata a vedere Savalle e davano in omaggio l'Ericola. No, cioè no. È roba seria, nel senso, cioè, capito? Sovvenzioni di nomi importanti. Cioè, come Sfera e Basta. Sì, è chiaro. Vabbè. E comunque appunto sei in America, e quindi se non ti vendono così i Rolex e non ti dicono che Dolce & Gabbana gli dai soldi, non stanno bene. Certo. Però, ecco, quindi l'opera è particolare anche per come è strutturata, perché c'ha un antefatto che è proprio la prima scena su cui si apre, non ha prologo, si apre subito su questa prima scena, che nella versione che ho visto io appunto era un po' trasportata alla Belle Époque, ecco, quindi non aveva tanto il medioevo gotico in cui l'ambientano sempre un po', era un po' più avanti, però la prima scena è sulle rive, appunto, di le prime due parti, diciamo, sono in esterni, la prima sulle rive in Scozia, sul mare, la seconda in un appunto alle rovine di un castello con questa fontana, quindi c'ha queste prime due parti in esterno, e tra l'altro appunto ha questo antefatto che è questa prima parte, diciamo, un atto unico in cui si spiega appunto un po' la partenza, che è fondamentalmente la nobile famiglia Ashton, alla quale appartengono i fratelli Enrico e Lucia, appunto Lucia la protagonista, ha usurpato i beni e il castello della famiglia Ravenswood, il cui unico erede Edgardo è appunto l'amante di Lucia. Edgardo e Lucia sono amanti segretamente, però classico plot, le famiglie ovviamente sono rivali, e questo è così il topo classico, si sa. Quindi la prima parte, che si chiama La Partenza, appunto è un atto unico, e si divide in quadro primo e quadro secondo, ma prima di scendere in particolare e di andare avanti, di farvi sentire un po' di informazioni, perché appunto la Lucia di Lammermoor ebbe la sua prima assoluta con grande successo, partì già, è un'opera che ha sempre avuto molto successo fin dal suo debutto, questo successo si è mantenuto più o meno intatto, diciamo, nel tempo, ha avuto chiaramente momenti di fortuna, reprise, poi lo diremo, però con grande successo appunto al Real Teatro di San Carlo di Napoli il 26 settembre del 1835. Dopo la prima napoletana, Donizetti autorizzò numerose variazioni per le esecuzioni in altri teatri, allo scopo di venire incontro anche alle esigenze delle cantanti, perché appunto ha avuto varie forme, proprio perché appunto è stata adattata anche a chi cantava, a chi la doveva interpretare, perché appunto è molto difficile, quindi no? Dovevano sempre un po' adattare al tipo di voce che aveva il soprano in causa. L'azione, appunto, come vi dicevo, si svolge in Scozia alla fine del XVI secolo, nel castello di Ravenswood. Chiaramente poi ogni versione ha degli adattamenti, quella che ho visto io in particolare era un po' ambientata alla fine dell'Ottocento, quindi loro avevano i costumi così Belle Époque, proprio fine du siècle, e non quelli appunto un po' seicenteschi, cinque seicenteschi. Quindi questa è un po' la storia di un amore fondamentalmente contrastato, ma contrastato proprio grettamente da... Cioè, qui è proprio una roba non di ideali, cioè qui proprio il fratello di lei vuole i soldi, cioè fondamentalmente è proprio una roba, cioè proprio, fanno proprio leva tanto su questa cosa qui, questo fratello tremendo che pur di avere insomma i beni, proprio pur di prendersi i possedimenti della famiglia di Edgardo, appunto ne fa di nere, tra cui promettere Lucia in sposa a un altro. E qui comincia a cascarci ovviamente il problema, perché appunto, come vedremo via via, lei viene promessa a un altro uomo, e di cui ovviamente non è innamorata perché ama Edgardo. No, tanto lei mica è importante. No, appunto, siccome lei è incontra un cavolo, il fratello proprio se la gioca così, cioè fa e disfa, decide. Il fratello, grazie al consigliere spirituale, questo prete tremendo, questo che proprio è causa dei mali. Quindi appunto, per così, per darvi una panoramica, l'opera ha sempre avuto grandissimo successo fin dal suo esordio, proprio per questa capacità che c'ha di, no, di coinvolgere, di anche un po' di fare immedesimare, no? E il pubblico. L'hanno cantata numerosi soprano e tenore, appunto, e la parte maschile è un tenore, e e poi c'è il baritono, che è il terzo lato del punto di vista triangolo, che è il fratello, che è chiaramente il cattivo della situazione. Tantissime le parti, le aree sono tutte molto famose, in particolare quella della pazzia, però appunto tratteremo nella seconda parte. Non è che vi possiamo svelare tutto subito. No, qui io direi di andare con il primo ascolto. Sì, che anche perché sì, quello di oggi ne faremo soltanto, sì, due di ascolti, quindi insomma ci giochiamo subito la prima metà degli ascolti. Regnava nel silenzio, Silenzio, che viene da questa prima parte che vi dicevo, in cui Lucia, in particolare in questa parte, Lucia recita appunto la sua parte davanti a questa fontana di pietra, in cui si dice, lei confessa alla sua dama di compagnia l'antica storia, l'antico mito di un Ravenswood, cioè di uno della famiglia di Edgardo, il suo amato, che in quello stesso luogo uccise per gelosia la propria amata, il cui fantasma da quel giorno si aggira inquieto presso la fontana. Lucia appunto confessa ad Alisa, che è la sua dama di compagnia, che è l'altra sulla scena con lei, di aver visto ella stessa il fantasma. Appunto, regnava nel silenzio, è proprio l'aria riferita a questo, a cosa dice lei. E Alisa interpreta questo racconto come un cattivo presagio e mette in guardia Lucia dal rischio di subire la stessa sorte. Ci sono due versioni, sono sempre state fatte dell'opera. Una in cui il fantasma si manifesta fisicamente, cioè come un'attrice proprio esce dalla fontana e fa il fantasma, e lei, no, e tocca Lucia appunto non lo sente. E una invece in cui il fantasma è solo citato e non compare fisicamente. Queste sono chiaramente scelte registiche. Nella versione che ho visto io, il fantasma compariva proprio questa donna, questa attrice muta, che non aveva parola, e che camminava, appunto, si muoveva intorno a Lucia, la toccava, era molto bello perché lei non la vede, quindi è molto intenso questo momento. Lei continua a cantare e non la sa, e a momenti però sembra che la senta, no? Sente qualche tocco, si gira, però non la vede. La presenza che c'è molto, o non bello, c'è. Sì, è molto gotico, perché questa versione che ho visto io spingeva parecchio su questo aspetto del gotico, del quasi, no, del, che era proprio vittoriana come interpretazione, ed era molto bella. Quindi questa è l'aria tratta da questo momento che vi dicevo, atto unico, quadro secondo, regnava nel silenzio. Sì, io ovviamente ho scelto quasi sempre gli ascolti che vi daremo in pasto, ho scelto quasi sempre Maria Callas, perché secondo me, vabbè, non c'è proprio gara, e io ho una... predilezione, si senza nessun ruolo, ritegno. Questo ruolo è rimasto suo, molto famoso, appunto. No, è secondo me è una cosa da proprio da sindrome di Stendhal, e quindi secondo me ve lo dovete beccare. Sì. Arrangiatevi se avete altre predilezioni. Vabbè. Poi magari facciamo un'altra in più avanti, se ne trova altre. Però ma voglio dire, ma perché? Quando c'è comunque il meglio. Maria Callas nel 1959, quindi non proprio all'inizissimo della sua carriera, ma insomma neanche troppo in là, nella Filarmonia Orchestra condotta da Tullio Serafin. Quindi, scusate, che fai, poi, no? Dici, vabbè, t'arrendi. Eh sì, vabbè, ciao. Era proprio la brividi. Questo appunto, come vi raccontavo, precede proprio questo racconto di Lucia, precede un'altra parte che si chiama appunto Sulla tomba che rinserra, magari lo ascolteremo poi nella prossima volta. Intanto, così, per darvi al punto in cui siamo nella storia, Edgardo, appunto il suo innamorato, annuncia a Lucia, infatti è arrivato Edgardo sulla scena, e annuncia a Lucia di dover partire per difendere le sorti della Scozia. Ma prima intende appunto chiedere la mano di Lucia, stendendo così, cercando di ricucire il rapporto con la famiglia di Lucia, tendendo la mano al fratello in segno di pace. Ingenuo. Vabbè, Edgardo è proprio un ingenuone, si fa conto che io sono furba, cioè Edgardo proprio niente, non ce la può fare. E il fratello proprio se lo mangia in un boccone e Lucia gli dice no, guarda, non hai capito. Aspetta, gli chiede appunto di attendere perché sa che il fratello è tremendo. È un birbone. Appunto, è veramente tremendo. Enrico, e gli dice no, aspetta ancora, però intanto Edgardo deve partire e quindi loro si scambiano questi anelli nuziali che saranno poi importanti durante la vicenda, cioè, l'anello è proprio un simbolo, torna spesso questo gesto di mettersi l'anello, di levarlo, e si congedano appunto giurandosi questo grande amore e fedeltà eterni. Che però, che già sono difficili, e poi se poi il fratello ci mette lo zampino. Addio. E da qui, infatti, questa è proprio la chiusa dell'atto unico, del quadro secondo di questo primo atto unico, diviso in due quadri. E questa è la chiusa del quadro secondo, con il saluto dei due amanti e il giuramento che si rivedranno, e comunque appunto di questo impegno di essersi scambiati gli anelli. L'aria appunto che è, appunto rappresenta questa parte è Verranno a te sull'aure, è un'aria che è rimasta celeberrima, molto famosa, uno dei duetto. Pezzi più famosi, sì, scusami, il duetto, tra i due amanti, e noi ce l'ascoltiamo perché chiude appunto questa prima parte, e anche qui l'abbiamo scelta per chiudere un po' questa prima parte della trasmissione e rimandarvi alla prossima parte in cui continueremo il racconto della soap opera e faremo altri ascolti e daremo poi altre informazioni via via. Quindi oltretutto questa versione che ci ascoltiamo, oltre a vedere Maria Callas come interprete un'altra volta, perché appunto la fissa, no, comunque la Maria così ha fatto queste scelte, scusate, giustamente. E l'altro protagonista è Giuseppe Di Stefano, altro importantissimo protagonista dell'epoca, e l'orchestra è quella del Maggio Musicale Fiorentino, sempre diretto da Tullio Serafini, anche questo giro, ma l'orchestra del Maggio Musicale questa volta, e quella che ci ascoltiamo è una registrazione live al Teatro Comunale di Firenze nel 1953, quindi qualche anno prima della versione che invece ci siamo andati a sentire. Non c'è una coerenza negli ascolti che ci ascoltiamo, cioè che vi facciamo sentire in questa soap opera, perché non così un po' casuale, sì. non sono tratti, no, tutti dalla stessa versione. Ci sono mille versioni, ovviamente anche volevamo trovare anche quella, magari la troviamo poi per le prossime volte, anche proprio quella che avevo sentito io. Sì, tra l'altro anche interessante sentire la stessa voce della Callas, peraltro, cambiare nel corso degli anni, sì, o altre presa versioni. Da momenti differenti. Sì, sì, certo. Sì. Allora, dai, sei un nerd d'altra parte, ma ormai lo sapete. Sono un nerd. Volevo dare un po' di indicazioni al volo prima del pezzo sui ruoli vocali appunto di quest'opera, perché ora non l'abbiamo ancora sentito, per ora abbiamo sentito solo Lucia e ora sentiamo Lucia e Edgardo, che è un tenore, ma le parti principali sono appunto soprano, tenore e baritono, che formano un po' la tipica costellazione del melodramma ottocentesco, e sono un po' anche qui alla base dell'opera. Poi chiaramente ci sono altre parti, le diremo, con altri ruoli. Il punto di partenza di Donizetti per la vocalità è della protagonista in generale, è sempre un po' il bel canto rossiniano, quello che era la tradizione, no? Mentre per le vocalità maschili è adottato quello che si chiama, la signora Maria ne saprà sicuramente di più, un canto spiegato. Lucia incarna proprio completamente, no, il significato proprio che la voce del soprano ha sempre nel melodramma romantico, come dicevamo, innanzitutto, no, appunto la protagonista, e quindi così l'oggetto dell'amore, appunto, no, delle sorti anche suo malgrado, e in realtà, anche se da un lato appunto viene dalla tradizione del bel canto, Donizetti appunto gli dà tutta questa componente psicologica piuttosto profonda, piuttosto difficile anche, no, da interpretare. Quindi le colorature di Lucia sono tutte mirate a esaltare questo carattere, no, gentile, di candore, così classico, no, dell'eroina così sfortunata, dell'eroina tragica, però anche parecchio indicano la fragilità di questa indole, e anche l'astrazione a un certo punto dalla realtà, perché lei proprio, lo vedremo più avanti, impazzisce. Quindi non è solo l'eroina classica che si strugge nel melodramma, cioè lei proprio a un certo punto compie dell'azione anche volitiva nella sua follia, no? Quella che verrà chiamata la follia, che poi in realtà altro non è che in realtà una reazione abbastanza naturale a una costrizione, perché poi di questo si tratterà, cioè lei viene proprio costretta. Per cui ecco, ci vuole grande capacità di saper dare queste due anime, no? Di gentilezza, di candore, di purezza, e allo stesso tempo però di forza, di, no? di forza estrema, di disperazione, che porta proprio alla violenza a un certo punto. Quindi ecco, attraverso l'esibizione continua di questi di gorgheggi, no? Questa tessitura molto alta di note ribattute, picchiettate, no? Volatili proprio, lei deve riuscire a dare però anche un senso di forza. In questo la Callas probabilmente era perfetta, perché sì, aveva questa capacità, no? Di non fare solo il bel canto classico. Aveva così, anche una personalità probabilmente che gli consentiva. Abbellito, infatti. Anche questa che ho visto io, questa soprano, era veramente brava, perché riusciva a dare proprio questa, magari non per forza, magari tagliava un po' sul gorgheggiamento, cioè lo avevano un po' ridotto per secondo me, per sottolineare invece questa parte molto più forte, molto più estrema, no? Quasi urlata in certi punti di disperazione. È importante anche la parte del tenore, perché come spesso dicono i critici, e penso sia vero, questa è un po' l'opera che fa nascere il tenore concepito proprio nella concezione moderna del tenore, quella che noi pensiamo il tenore classico, e nasce un po' qui, questa voce molto, no, chiara, squillante, che si contrappone al baritono, che invece è il nemico, è il cattivo, no? In cui lui, il tenore appunto Edgardo, ha questi accenti intrepidi, drammatici, però anche molto, molto chiari, molto forti, e possiede questa grazia anche un po', la voce è molto luminosa, molto, molto penetrante. Questo tenore che c'era nella versione che ho visto io, tra l'altro era italiano, d'Arezzo, poi vi dirò anche il nome, era veramente bravo in questo, cioè c'aveva questa voce molto, molto luminosa, molto bella, positiva, però anche molto forte, molto, che si contrapponeva proprio invece al fratello di lei, che è un baritono, cioè questa voce proprio spaventosa. Non a caso, non in questa parte, ma nella seconda parte della nostra puntata, vi faremo sentire come tenore, attenzione, reggetevi forte, lui. Ello. Il topone. Il topone. Pavarotti. Che noi l'abbiamo, tra l'altro siamo state brave, non abbiamo mai, no, abbiamo mai usurpato finora. No, però a questo punto andava messo. Sì. Ma non vi anticipiamo niente di più, perché a questo giro invece il tenore in questione è Giuseppe Di Stefano, che insomma, voglio dire. E che comunque. E quindi vi lasciamo a questo duetto appunto d'amore e di promessa di futuri incontri, che ahimè purtroppo, come in tutte le spesso nelle opere, ecco, andrà purtroppo a finire male, per non bene dire. Invece andrà la promessa della nostra seconda parte di puntata, quella verrà mantenuta, e quindi vi diamo anche appuntamento a domenica prossima per ascoltare il prosieguo della luce di Lammermoor, perché ormai è rimasta la curiosità, dai, ah, io di chi vince Vabbè, l'avete capito che comunque non va bene. No, va malissimo. Però dovete sapere, cioè, come? Perché, infatti, dai, cioè, ora vi è rimasto il dubbio, io lo so. E infatti, anche perché il bello deve venire, insomma, sì, già solo l'area della pazzia. No, tutto il bello merita, deve tutta ancora la puntata. Venire. Sì, sì. Bene, vi diamo appuntamento allora domenica prossima e ci risentiamo quindi sempre su Radio Wombat e sempre su La fuga del gatto. Ciao, ciao a tutti. Spargi una mano.